30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Torri di lancio, sistemi di comunicazione, sale di controllo, oltre 3 milioni di metri cubi di spazio utile, sollevatori, argani, ponti compresi del formidabile VAB, il parallelepipedo alto 160 metri, largo quasi altrettanto, dove vengono assemblati i razzi prima del trasferimento alle rampe di lancio. Il Kennedy Space Center, cornice subtropicale di oltre 40 anni di lanci verso lo spazio, va in affitto, apre ai privati, chiamati fortissimamente in causa dal nuovo indirizzo per il futuro dell'esplorazione spaziale americana indicato dal presidente Barack Obama. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento settimanale con 30 minuti in cronaca. Questa sera parliamo dunque di spazio. Dovete sapere, chi ha avuto il piacere di visitarlo sa che uno dei più popolari gadget tra quelli in vendita nei negozi che circondano Cape Canaveral è una maglietta che recita I want my space, voglio il mio spazio. È una maglietta che è stata venduta in milioni di pezzi, va bene per tutto, per tutti, soprattutto per gli adolescenti, ma in queste settimane sembra però quasi rivolto più al personale stesso della base di lancio. Da Cape Canaveral a Houston, infatti, dall'Alabama alla Virginia, il sistema NASA è scosso dall'indirizzo dato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che nei primi giorni di febbraio ha formalizzato le sue intenzioni. Nell'ambito di un processo di progressiva trasformazione e privatizzazione dei lanci, la decisione che per così dire ha fatto i titoli è quella del taglio della Luna, il taglio alla Luna di Obama, hanno titolato i quotidiani in mezzo mondo. Insomma, la chiusura del programma Constellation, avviato nel 2003 da Bush Jr., per il ritorno dell'uomo sulla Luna entro il 2020. E parliamo proprio partiamo da questo punto e da questa notizia con l'ospite di questa sera, il professor Giovanni Bignami, professore di astronomia all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Chi conosce lo spazio conosce il professor Bignami, già direttore scientifico dell'Agenzia Spaziale, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, officier de la Légion d'honneur, insomma una lunga carriera tra l'Italia, la Francia e gli Stati Uniti che, lo ribadisco subito, l'ha portato a studiare, quindi una vita da ricercatore e scienziato, ma anche da manager. Professore, buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, come valuta questa decisione? In modo inevitabile, devo dire. Il problema è che aveva sbagliato Bush, aveva notoriamente debole in aritmetica, non aveva fatto abbastanza i conti, il suo programma era infattibile, la povera NASA, conosco bene che sono persone bravissime, professionali, serie, avevano cercato l'impossibile di fare questa mission che però era impossible, non era possibile immaginare di tornare sulla Luna senza un aumento di budget paragonabile ad Apollo, e naturalmente implicava l'abbandono brutale della stazione spaziale, eccetera, una serie di conseguenze abbastanza assurde. Quindi ecco, questione di soldi innanzitutto, quindi gli investimenti per la Luna dovevano essere enormi. Il programma Apollo è costato 165 miliardi di dollari del 2008, più o meno quanto è costata finora la stazione spaziale, solo che il programma Apollo era spalmato in un tempo molto più breve della stazione, e ai tempi di Apollo il budget della NASA raggiungeva, mi pare, il 4% del PIL degli Stati Uniti, quindi bisognava più o meno raddoppiarlo rispetto a quello che è adesso per poter avere una speranza di fare sul serio. Ecco, io so che io come tutti quelli che seguono un po' le vicende spaziali, lei era freddo anche sulle ragioni di un ritorno alla Luna. Ah, certamente, questo è l'altro discorso, quello che ho detto finora era indipendente dalle ragioni. Certo. Mentre nel caso dell'Apollo era ovvio, no? I russi stavano cercando disperatamente di andarci, tra l'altro pochi sanno che ci è mancato poco che arrivassero prima i russi, come è arrivato prima Sputnik, come è arrivato prima Gagarin, attenzione. C'era in piena guerra fredda terrificante, il mondo era completamente diverso, quindi aveva un senso kennediano, diciamo. Adesso no, arrivare, tornare sulla Luna per rifare le immagini a colori anziché in bianco e nero era abbastanza inutile, e tutte le altre ragioni addotte, pur non stupide naturalmente, però non erano sufficienti a giustificare la spesa e per di più implicare buttare via tutti gli altri programmi. Di cui parleremo. Rimaniamo un attimo ancora solo sulla Luna. Tra le ragioni addotte si è parlato molto dell'acqua a un certo punto. Polo sud marziano, l'acqua come possibile materia prima per appunto spiccare il volo dalla Luna al Sistema Solare. Ecco, quanto c'era in queste notizie che nel 2009 comunque hanno tenuto banco in questo settore della necessità di sostenere quel programma e quanto invece di valore reale? No, abbia pazienza, sono cose abbastanza diverse, approssimative, dire così, cioè sulla Luna c'è qualche traccia di ghiaccio lasciata dalle comete che cadono, sono cadute nel corso di miliardi di anni sulla Luna, quelle che vanno in posti che sono sempre bui, dove non batte il sole, non evaporano, rimangono dei pezzi di ghiaccio, no? La gente resta com'è? Come nell'ombra, voglio dire, delle buio, valli d'inverno, diciamo al buio, esatto. Certo. Ecco, però è roba minima e certamente non giustifica l'andare sulla Luna, ma ancora peggio e immaginare di volere andare per esempio su Marte partendo dalla Luna. Io l'ho scritto anche su un giornale americano che questa era una cosa assurda. Se ci pensa un attimo, bisogna sprecare un sacco di energia dalla Terra per atterrare sulla Luna, dove non c'è atmosfera, qui c'è portarsi motori eccetera, e poi dalla Luna, anche se con gravità debole, ripartire. E l'allora amministratore della NASA se l'è presa con me dicendo: ma io non ho mai detto una cosa del genere, eccetera. Però l'aveva detta il suo presidente, poi è venuto fuori che era stato un errore dello speechwriter di Bush. Diciamo, nessuno che faccia spazio seriamente pensa che per andare su Marte si vada prima sulla Luna, vuol dire buttare via energia. Insomma, grandi titoli, ma come si dice, e lo dico con un sorriso, sarà stata colpa dei giornalisti. Ma nel frattempo ci sono delle riflessioni da fare, quindi sì. Constellation finisce, ma come lei ha anticipato, si aprono anche forse nuove prospettive. For T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, we have code 3 to start, 2, 1, 0, booster ignition, and liftoff of Shuttle Endeavour. NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial. Ecco, è sempre bello, credo, non solo per me, risentire il countdown, lo shuttle. Questo era l'STS 130, quindi quintultima missione dello shuttle, di fatto l'ultima importante missione di costruzione della stazione spaziale internazionale. Il nodo 3 arriva nello spazio con la famosa cupola di cui si è parlato per tanti anni. Dunque questa missione ora è, diciamo, entrata nella storia, tutto procede, ma la questione che vorrei affrontare con lei, professor Bignami, allora, il taglio di Constellation apre veramente una nuova prospettiva per la stazione spaziale, che è sempre stato una sorta di figlio, come dire, mai forse completamente sostenuto dall'ambiente, da una parte dell'ambiente spaziale? Perché capisce che l'origine era stata politica ai tempi di Reagan, che voleva distruggere l'impero del male, eccetera. Poi si trascinata per un sacco di tempo, alla fine è finita su un'orbita balorda a 51 gradi perché per farla bisognava usare i nemici di prima, cioè i russi che partono da Baikonur, e questo imponeva l'inclinazione dell'orbita un po' strana, però al di là di tutto questo, adesso che c'è, dobbiamo sfruttarla. Sarebbe stato assolutamente stupido finire di costruirla con questi bei pezzi italiani. Ricordiamo che l'Italia fa quasi la metà del volume, ha costruito quasi la metà del volume pressurizzato dove abitano e lavorano gli astronauti. Questi ultimi pezzi che mi ricordo avevo approvato io, che sono anche molto belli esteticamente, sono fondamentali per completarla. A quel punto poi deorbitarla, buttarla via tra un paio d'anni è veramente stupido, quindi io sono favorevolissimo al fatto che adesso stia in orbita ancora, diciamo, una decina d'anni, sperando di riuscire a inventare delle idee intelligenti che non giustificano la spesa, per amor di Dio. La spesa è giustificata dal fatto che abbiamo imparato ad andare nello spazio con la stazione. La nostra industria, sostenuta dalle tasse dei cittadini, ha imparato finalmente a costruire una casa nello spazio. È il primo passo necessario. però bisogna adesso farci qualcosa di intelligente, adesso che è pronta. Qualcosa che magari possa alimentare ancora una volta il sogno. A proposito di industria, io allora farei sentire subito una breve riflessione, ovviamente su questo tema, che arriva dall'ingegner Quaglino, Thales Alenia Space, quindi i costruttori, quelli che nel consorzio europeo, di fatto francese e italiano, hanno costruito una parte significativa, tra cui appunto il nodo 3. Sentiamolo. Ci sembra che Obama, più che tagliare la Luna, ha detto: questo programma della Luna così com'è non ci piace perché non è innovativo, bisogna che ci concentriamo su nuovi programmi, nuove tecnologie, in maniera tale che l'esplorazione possa essere sviluppata con tecnologie e mezzi di nuovi, aprendo anche a collaborazioni con gli altri paesi. Ma sicuramente noi la possiamo vedere positivamente, perché il fatto che ci sia un'apertura a collaborazioni internazionali, cosa che invece nel programma precedente della Luna non c'era, perché era un discorso solo americano che non contemplava delle collaborazioni con il resto del mondo e con l'Europa in particolare, sicuramente noi la vediamo in senso positivo. Ecco, questo è un punto di vista dell'industria, come avete sentito anche dall'accento dell'ingegner Quaglino, targato Torino, un luogo importante per la storia, per la costruzione di quella che è la stazione spaziale. Sicuramente la vediamo positivamente per la possibilità, per l'apertura di questo, di fatto, mercato, di questa possibilità a un respiro veramente più internazionale. 30 minuti in cronaca. Allora, professor Bignami, abbiamo sentito appena prima della pausa, l'ingegner Quaglino dice ci sono possibilità. Che ne dice? No, ma ha perfettamente ragione il mio caro amico Quaglino, che è uno degli autori proprio dei pezzi della stazione spaziale, e si merita un grosso riconoscimento per questo. È vero che l'altro cambiamento importantissimo, molto positivo di Obama, è l'apertura al resto del mondo, che invece Bush, preso questa sua paranoia americana, aveva chiuso, sbagliando evidentemente, e quindi certamente si aprono delle possibilità soprattutto per nuove tecnologie. Qui un po' il discorso che facevo prima: se continuiamo a usare la stazione, per esempio uno dei pezzi fatti dall'Italia sulla stazione che doveva servire andare avanti e indietro, adesso rimarrà attaccato sulla stazione in modo permanente, c'è un altro pezzo d'Italia, e per fare tutte queste cose si impara moltissimo, quindi l'industria impara moltissimo, in Italia interamente a spese pubbliche naturalmente, sulla possibilità di coinvolgere finanziamenti privati, non industrie private su contratto pubblico, ma finanziamenti privati, c'è ancora molta strada da fare. Ecco, a questo lei citava, immagino, gli MPLM, questi moduli che vengono lanciati diciamo inizialmente come contenitori pressurizzati, ma che a quanto pare sono fatti così bene da diventare parti integranti della stazione. Tutto questo significa anche una cultura, un apprendimento sulla vita in orbita formidabile. L'Italia sta valorizzando questo suo tesoro? Sta cercando di farlo, naturalmente con degli astronauti italiani che fanno parte, lo ricordo rigorosamente, del corpo degli astronauti dell'ESA. L'Italia ha giustamente degli astronauti italiani all'interno del corpo degli astronauti dell'ESA, e il volo di questi astronauti in qualche modo è considerato, diciamo, un ripagamento della grossa spesa, perché l'integrale di tutto quello che l'Italia ha speso per la stazione spaziale è molto significativo, che è stata fatta per costruire questi moduli. Però io mi lasci dire che trovo che questo va benissimo, ma l'Italia è soprattutto ripagata dal fatto che la sua industria, gente come Quaglino, diciamo, ha fatto dei programmi fortemente qualificanti e ha imparato, ha acquisito un know-how, una capacità di progettazione e di costruzione molto interessante. Parliamo ancora di industria. Nell'annuncio, nella prospettiva data dal presidente Obama, si parla dell'ingresso dei privati, soprattutto per quanto riguarda l'attività dei lanciatori. Ora, come dire, si fa presto a dir privati. Da una parte si citano colossi come la United Space Alliance, strutture che già di fatto sviluppavano grandi parti dei programmi della NASA, ma anche in realtà come SpaceX. SpaceX è una realtà, diciamo, nata da un miliardario giovane e innovativo e un ingegnere progettista con una visione probabilmente a sua volta innovativa. Insomma, che cosa c'è in questo mare magnum che in qualche modo Obama apre al mondo dell'esplorazione spaziale? Sicuramente è una cosa positiva, diciamo. Per il momento, come dice lei, l'impressione è ancora un po' di confusione. Cosa vuol dire privato? Beh, già adesso un sacco di industrie private negli Stati Uniti come in Italia ovviamente costruiscono i pezzi su contratto pubblico, no? Quindi i soldi vengono comunque dal taxpayer, non ci sono significativi investimenti di privati in questo. L'idea di farlo svincolati dalla NASA mi sembra ancora un po' difficile da capire, perché per fare un lanciatore qualificato per portare degli esseri umani e qualificato per attaccarsi alla stazione, fare il docking, che è una cosa seria, perché se uno sbaglia affonda la stazione, sì. Non è che la NASA dia il permesso a chiunque di andare lì a lavorare intorno alla stazione. Ecco, prima di arrivare a questo mi sembra un po' difficile, e poi non si capisce qua perché un privato dovrebbe investire queste decine di milioni, centinaia di milioni di dollari senza un ritorno concreto. Ok, we've had a problem here. This is Houston, say again please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt. Roger, main beam undervolt. Ok, stand by 13, we're looking at it. Ecco, a questo proposito, a settembre prossimo dovrebbe esserci l'ultimo volo dello shuttle, se non sarà settembre, ottobre, comunque l'anno. Dopodiché gli americani, certo i russi e quindi diciamo gli stessi americani più volte volano sulla Soyuz, ma insomma come accederanno allo spazio gli americani? Andranno col cappello in mano a chiedere un passaggio ai russi, anzi l'hanno già fatto naturalmente, e i russi hanno distrattamente aumentato significativamente il costo della Soyuz, vecchia, gloriosa, più o meno la stessa che ha portato in orbita Gagarin, non proprio, ma insomma scomodissima, però con 1500 voli, eccetera, capisce? Com'è possibile che si sia arrivati a questo punto? Perché anche i ricchi piangono, come dire, perché per colpa della politica, perché stavo dicendo che dal 75 all'81, pochi si ricordano, dalla fine del programma Apollo all'inizio del programma Shuttle, per 6 anni nessun americano ha potuto andare nello spazio, e allora non c'era questione di andare con i russi. Adesso sarà lo stesso, prima che gli americani avevano pronto un altro veicolo capace di portare in modo significativo, cioè un miglioramento dello shuttle, ci vorranno facilmente 5-6 anni. Un'ultima suggestione prima di concludere. Good afternoon everybody, I am Samantha Cristoforetti, I'm 32 years old and I am a European of Italian nationality. Devo dire che mi piace molto questo breve file audio. Samantha Cristoforetti, l'astronauta, la prima astronauta italiana, candidata astronauta italiana, che si presenta dicendo sono una europea di nazionalità italiana. Insomma, che futuro c'è per questa classe di astronauti, professore? No, molto bello. Intanto mi lasci dire, sono felice di sentire la voce di Samantha. Mi ha voluto fortissimamente che la prima astronauta europea fosse italiana. Diciamo ai nostri ascoltatori, la prima astronauta donna europea è italiana ed è Samantha, ufficiale dell'aeronautica, che non è più candidata, è astronauta ufficialmente, capisce? E certo. È un bellissimo risultato. Io penso astronauta quando sarà in volo, ma effettivamente sì, ormai no. Lo è nel corso. Sì, ma è già lo è. Cioè, è in corsa per volare. Assolutamente. Ecco. Ed è una cosa, un risultato bellissimo per l'Italia, io ne sono contento, dimostra che i nostri giovani bravi, ovviamente ci sono, vincono la selezione europea. Ricordiamo che Samantha ha dovuto passare una selezione europea sulla base rigorosamente di titoli, non di raccomandazioni politiche italiane o cose del genere, capisce? Samantha Cristoforetti ha un curriculum vita impressionante, non abbiamo tempo di snocciolarlo, per la sua giovane età, insomma, un percorso formidabile. Esatto, e siamo molto orgogliosi di lei, quindi io penso che ci sia un grosso futuro per l'uomo nello spazio e credo che Samantha voglia fortemente andare su Marte. Insomma, nonostante i titoli, di Obama taglia la Luna, in realtà lei come vede i prossimi anni? Io vedo i prossimi anni dedicati giustamente a costruire un programma più ambizioso che non semplicemente ritornare sulla Luna, che sarebbe da solo forse la fine di un programma, perché dopo si sgonfierebbe l'interesse pubblico. Bisogna raccogliere, non più come ai tempi di Kennedy, Monte Cambiato, però bisogna raccogliere l'entusiasmo del pubblico e l'interesse delle industrie, dei tecnici, a sviluppare dei nuovi modi di andare nello spazio con gente come Samantha. Grazie al professor Giovanni Bignami, grazie di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche il nostro Peter Bescapè in regia. Vi ricordo come sempre radio24.it per sentire e risentire questo e tutti gli altri programmi di Radio 24. Buon fine settimana a tutti.